Townsend degli U assicura che senza Rumble non avrebbe mai suonato la chitarra. Della stessa idea sono Jimmy Page, Jeff Beck, Neil Young, oltre a centinaia di altri chitarristi folgorati da quella terribile scarica ad alto voltaggio. Il leggendario pezzo, nonostante la censura delle radio, diventa un successo nazionale. Ma sulla Cadence Record piovono le accuse dei conservatori perché convinti fomentasse la guerra fra bande tipo West Side Story. Incredibile, visto che il brano era strumentale. Archie Blair, il proprietario della discografica newyorkina che aveva a catalogo gli innocui Everly Brothers o le Chordettes, era un uomo di fede. Un conservatore con un forte compromesso con quella gioventù americana facilmente traviabile. Si aspettava un altro Dwayne Eddy, ma quel chitarrista mezzo sangue aveva un suono crudo e selvaggio, come dimostra la sua psichedelica versione di Rebel Rouser. L'inquietante Rumble rappresentava l'antitesi dei sani valori che difendeva, quelli della classe media americana, fatti di patria, famiglia e fede. Blair decide di non rinnovare la band e lasciare nel cassetto numerosi brani, pubblicati fortunatamente molti anni più tardi con il nome di White Lightning, The Lost Cadence Session. Il gruppo passa alla Epic, con la quale pubblicano il 5 gennaio del 59 un brano scritto nel posteriore di una Chrysler durante un viaggio in Texas. All'inizio della carriera, quando faceva il sessionman per artisti country come Lash LaRue o Tex Ritter, Link si lamentava dei loro amplificatori che non resistevano alla massima potenza. Il chitarrista era ossessionato dalla ricerca di un suono sporco e limpido allo stesso tempo. Lo ottiene modificando il suo amplificatore Premier e cambiando la sua Gibson Les Paul, diventato troppo pesante dopo l'asportazione del polmone sinistro, per una strana chitarra, una Dan Electro Longhorn. Suo fratello Doug gli diceva che era pazzo, ma probabilmente non ricordava che il morbillo gli aveva fatto perdere un po' di udito. Per questo voleva suonare forte. La sua smania si traduce in una strepitosa raffica chitarristica intitolata Rawhide. tre storie che il destino intreccia perfidamente in un tragico e triste epilogo. Tre vite che si spezzano. Tre voci che ammutoliscono nel giorno più buio della musica. You changed a beggar into a king. La prima è quella di Giles Perry Richardson, un simpaticone grande e grosso che deve ben presto mettere da parte l'idea di una carriera nel football americano per via di un brutto infortunio al ginocchio. All'istituto Beaumont, Juneau, Texas, diventa lo stesso popolare partecipando agli spettacoli delle confraternite studentesche. And you whisper, come DJ, vince il suo primo concorso musicale nella radio della scuola, nel quale fa pisciare addosso i compagni dalle risate con i suoi testi esilaranti e le sue imitazioni. Il suo stile esuberante e comunicativo attrae le attenzioni della KTRM, che gli fa condurre un programma tutto suo. Nel 52 si sposa e l'anno dopo nasce sua figlia Debra Joy. Nel 55 deve lasciare perché lo zio Sam lo vuole istruttore di radar a Fort Bliss, a El Paso. Dopo i 2 anni di servizio militare, torna alla radio dove conduce Dishwasher Serenade, un programma mattutino molto seguito. Quando uno degli sponsor della radio vuole JP, come ama farsi chiamare per un programma in un'altra fascia oraria, decide di cambiarsi il nome d'arte. Richardson ricordava un ballo che si faceva a scuola chiamato Bob. Così, visto che era grande e grosso, decide di passare a The Big Bopper e diventare presto uno dei DJ più popolari del paese. Entra nel libro dei record omonimo di quella straordinaria birra scura irlandese per la trasmissione radiofonica ininterrotta più lunga. Trasmettendo da una cabina in vetro visibile dalla strada, il Big Bopper rimane in onda per 5 giorni, 2 ore e 8 minuti di fila, trasmettendo 1821 pezzi. Alla radio conosce un altro DJ, George Jones, che aveva avuto qualche timido successo con alcuni pezzi country. Così si mette a scrivere canzoni da cowboy e a registrare a nome J.P. Richardson and the J-Pets, Beggar to a King. Poi, con migliori risultati, passa al rockabilly con questa Monkey Song. Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet man. Il suo single successivo è il primo a nome The Big Bopper e nonostante sia nascosto sulla B-side, diventa il suo più grande successo. Chantilly Lace è misteriosamente million seller. È uno dei 3 brani più suonati del 58. Vista la necessità di farsi conoscere maggiormente, accetta di partecipare al Winter Dance Party assieme ad altre star del rock and roll. Hey, oh, I get another day to help. Well, it's getting awful later. Well, I told you when I watch you home, and I told you on the telephone. L'altra storia è quella del nuovo astro nascente del rock latino, Richie Valens. Dopo il successo di Donna, il ragazzo decide di regalare una casa all'adorata mamma e celebrare con i vecchi compagni di scuola il suo successo con un concerto al college. Well, come on, let's go ahead. Durante le vacanze natalizie partecipa all'Alan Free Jubilee Show, dove stringe amicizia con Eddie Cochran. La sua fidanzata, Sharon Shelley, aveva scritto una canzone per Eddie intitolata Hurry Up. Sbrigati, visti i continui ritardi del moroso. Ma Eddie era sicuro fosse perfetta per Richie, che infatti la incide. Il 27 dicembre, con una splendida camicia di raso blu, un gilet nero e dei pantaloni borchiati, suona Donna all'America Bandstand. You're mine, and we belong together. In gennaio, le riprese di Go Johnny Go, tutto inframmezzato da registrazioni di canzoni per quello che doveva essere il suo primo album. Per promozionarsi, decide di partecipare al Winter Dance Party Tour. You don't like crazy music, you don't like rock and bands, you just wanna go to a movie show and sit there holding hands, you're so square. Baby, I don't care. L'ultimo personaggio di questa storia è Buddy Holly, l'occhialuto ragazzo della porta accanto che in una folgorante carriera di neanche 2 anni ha influenzato la musica del divenire in maniera decisiva. You don't know any dance steps that I do. Con i Crickets, schierati a 4 elementi con 2 chitarre, ritmica e solista, ha stabilito la formazione classica del rock. I wonder why I love you, baby. I guess it's just because you're so square. Baby, I don't care. La sua influenza è tangibile nel nome del gruppo di Graham Nash, gli Hollies, e i Beatles si battezzano così per la similitudine con i suoi Crickets, i grilli. Nonostante una produzione forsennata sia a suo nome sia con l'uscita a nome del gruppo, e quasi tutto il 1958 passato a dare concerti in tutto il paese, oltre che Hawaii, Inghilterra e Australia, Buddy e gli altri membri della band continuavano a ricevere una paghetta da Norman Perry. La moglie, Maria Elena, gli aveva aperto gli occhi. Grazie al suo lavoro per la discografica, conosceva quell'ambiente pieno di furfanti. I just can't seem to get you off my mind. Buddy aveva capito che Perry l'aveva sempre fregato, negandogli le quote effettive dei suoi guadagni. You're the one I love and I think about you all the time. Dopo un litigio fra i due, il manager promette a Holly che non gli avrebbe fatto vedere il becco di un quattrino. Promessa mantenuta, visto che era l'unico titolare del conto bancario. It feels so useless, I know it's wrong to keep a crying, waiting, hoping. Si separa dai Crickets e si trasferisce nel Greenwich Village a New York, dove si diletta a incidere alcune demo su un registratore Ampex a 2 piste. Incide anche 4 brani in studio con l'orchestra 18 elementi di Dick Jacobs, una vera e propria innovazione nel rock. Crying. La coppia vive della generosità della zia di Maria Elena, ma la situazione è insostenibile. Con la moglie incinta e l'impellente necessità di soldi, Buddy accetta di partecipare a un tour nel gelido Midwest chiamato Winter Dance Party. Open, you'll come back, maybe someday soon things will change and you'll be mine. Crying. La notte prima della partenza, Buddy viene svegliato dal pianto singhiozzante della moglie. La sveglia e le chiede cosa fosse successo. Gli racconta che si trovava in un campo con gente che correva dappertutto e delle grida: stanno arrivando, presto! Qualcuno le dice di scappare, ma lei resta immobile. Poi un rumore assordante e nel cielo un'enorme scia luminosa che si avvicina a gran velocità. Quando capisci che quell'enorme palla di fuoco viene dritta verso di lei, comincia a correre. Riesce a salvarsi, ma l'enorme incendio provocato dallo schianto le impedisce di vedere cosa fosse successo. Buddy consola la moglie e se la stringe al petto, dicendo che anche lui aveva avuto un brutto sogno. Doveva volare via da lei e dal suo bambino, ma sarebbe ritornato a prenderli. Maria Elena cerca di convincerlo a non partire, ma lui le spiega che quelle 3 settimane di lavoro avrebbero dato un respiro alla loro economia. But it's raining, raining in my heart. Il Winter Dance Party era uno sciagurato tour programmato nel bel mezzo dell'inverno degli stati più freddi del Midwest, Wisconsin, Iowa e Minnesota. Raining in my heart. L'organizzazione dell'evento è un completo disastro fin dall'inizio. Era previsto visitare 24 città distanti fra loro centinaia di chilometri in 3 settimane in un assurdo percorso a zigzag. It's gonna become of me. Il mezzo di trasporto scelto era da denuncia penale. In uno degli inverni più freddi di sempre, era stato messo a disposizione degli artisti un vecchio autobus pieno di spifferi e senza riscaldamento. Raining in my heart. Dopo una settimana, Valens e Big Bopper sono influenzati, mentre il nuovo batterista di Holly, Carl Bunch, deve abbandonare per il congelamento dei piedi. Please don't tell, no, no, no, don't say that I told you so. I just heard a rumor from a friend. A Clear Lake, nell'Iowa, Buddy non ce la fa più. I lunghi viaggi con quel freddo sono insopportabili, così decide di noleggiare un piccolo aeroplano per lui e i membri della sua nuova band. Il chitarrista Tommy Elsop e l'amico dell'adolescenza, il bassista Waylon Jennings. L'obiettivo era raggiungere Fargo nel Dakota del Nord, l'aeroporto più vicino a Moorhead nel Minnesota, e guadagnare prezioso tempo per riposare. Quando Holly comunica agli altri partecipanti al tour la sua decisione, il Big Bopper, che non stava per niente bene, chiede a Jennings di cedergli il posto. Il bassista, visto come stava il collega, acconsente. Richie Valens, che più o meno era nelle stesse condizioni del DJ texano, prova a chiedere il favore a Alsop. Forse lo stato di salute gli avevano fatto scordare la promessa che aveva fatto lo zio Eliodoro. She's the one I've been told, now she's wearing a band of gold. Peggy Sue got married not long ago. Il 31 gennaio del 57 c'era stata una collisione aerea proprio nelle vicinanze della sua scuola. Alcuni pezzi degli aerei erano caduti nel cortile della scuola, causando 3 morti e una 70 di feriti. Lo zio l'aveva ammonito di non salire mai su uno di quei cosi e gli aveva strappato pure una promessa. Probabilmente Valens non ci aveva manco pensato a quella storia. Era molto contento perché era la prima volta che aveva fortuna a qualcosa, quando vince il posto a testo croce. Buddy Holly, venuto a sapere dei cambi, augura scherzosamente all'amico Waylon Jennings che il suo vecchio autobus si congeli. Lui gli risponde per le rime: spero che il tuo aereo si schianti, una battuta della quale si pentirà per tutta la vita. Il piccolo aeroplano, con capacità per 3 soli passeggeri, decolla 55 minuti dopo la mezzanotte di martedì 3 febbraio e non arriverà mai a destinazione. Una nevicata riduce la visibilità e il giovane pilota non è in grado di volare in quelle condizioni. Dopo solo 6 miglia dall'aeroporto, il velivolo si schianta in un campo di grano turco, senza lasciare alcun superstite. Quel giorno, grazie alla canzone di Don McLean, American Pie, è conosciuto come The Day The Music Died. Well, all right, so I'm being foolish. La sposa di Holly viene a sapere la notizia dalla televisione. About the dreams and wishes you wish. Lo shock di ritrovarsi vedova dopo solo 6 mesi le fa perdere il bambino. Il Big Bopper lascia una moglie incinta e una figlia, mentre la vita di Valens dura appena 17 anni. Il Winter Dance Party è andato avanti per altre 2 settimane come se nulla fosse successo, facendo entrare il cartellone Fabian, Frankie Avalon e Jimmy Clanton. Le registrazioni di Holly con sola voce e chitarra dell'appartamento della Fifth Avenue verranno sovraincise dai produttori di Holly e rappresentano il primo disco postumo di un artista. Dalla rivoluzionaria session di ottobre con l'orchestra di Dick Jacobs, il singolo estratto, sull'onda emozionale di quanto accaduto, scalerà le classifiche di molti paesi. It doesn't matter anymore. There you go, invited. Here am I, oh, will you? Left me here so I could sit and cry. Well, golly gee, what have you done to me? Oh, well, I guess it doesn't matter anymore. Do you remember, baby, last September, how you held me tight each and every night? Well, whoops-a-daisy, how you drove me crazy, but I guess it doesn't matter anymore. There's no use in me a-crying. I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new. Baby, we'll say we're through and you won't matter anymore. There's no use in me a-crying. I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new. Baby, we'll say we're through and you won't matter anymore. You won't matter considerati giustamente come i pionieri della scena del Northwest e la prima garage band della storia, sono diventati fonte di ispirazione per centinaia di gruppi e produttori di alcuni artisti imprescindibili come i Sonics. Si formano nel 57 a Tacoma, nello stato di Washington, quando alcuni amici delle scuole superiori si ritrovano per suonare alla base navale di McCord. Inizialmente fanno jazz, ma le richieste del pubblico li portano a passare presto al rock and roll. Sono un quintetto chiamato Nightcaps, formato da John Grieg alla chitarra ritmica e tromba, Rick Dengel alla solista, Mark Marush al sassofono, Mike Burke alla batteria e Ken Morrill che canta e suona il piano. Alla fine del 58, con il nuovo nome di The Wailers, registrano ai Commercial Production Studio di Seattle una demo. Un band leader della città, Attilio Art Mineo, compositore dell'opera futuristica Man in Space with Sound, vuol far loro da padrino e invia la copia a Clark Gale House della newyorkina Golden Crest Records. Gale House viene colpito in particolare da un pezzo intitolato Scotch on the Rocks. Lo fa registrare nuovamente e, visto che a parte Grieg il resto del gruppo erano tutti minorenni, decide di cambiare il titolo in Tall Cool One per evitare eventuali problemi con la legge. Pubblicato nel febbraio del 59, vende 20.000 copie in 10 giorni e arriva sorprendentemente nel top 40 della classifica pop e al 24esimo posto in quella rhythm and blues. Il successo procura loro alcune apparizioni televisive, culminate l'11 giugno all'America Bandstand di Clark. La discografica organizza un tour sulla costa est e alcune session dalle quali usciranno alcuni singles e a fine anno un album intitolato The Fabulous Wailers. Alla band viene chiesto di stabilirsi nella Grande Mela, ma a parte Grieg, gli altri preferiscono tornare a Tacoma, finire la scuola e riabbracciare amici, fidanzate e familiari. Questa decisione, oltre a concludere il rapporto con la discografica newyorkina, provoca una spaccatura. Grieg se ne va e nel gruppo entrano due membri dei Blue Notes, la band rivale di Tacoma, il bassista Buck Hornsby e il carismatico cantante Rockin' Robin Roberts, ma questa è un'altra storia. Quello strumentale inizialmente intitolato Whisky con ghiaccio, cambiato prudenzialmente dalla discografica nel più misterioso Uno alto e freddo, farà conoscere al mondo la band responsabile dell'esplosione della scena del Pacifico nord-occidentale, The Wailers, con questa Tall Cool One. Thank you. Signo cresciuto a pane in duia, ma non aveva capito niente. Poi ha indiso cioccolato bianco e mo faccia personal trainer di draghi i Johnny Spade. Vincent e Anna Guzzo, giovane matrimonio italo-americano, non avrebbero mai pensato che il bambino appena adottato era un prodigio. Invece di reprimere la propensione del piccolo Vincent Francis verso la musica, lo stimolano e dalla tenera età di 3 anni gli pagano le prime lezioni di canto e ballo. Due anni dopo, lo portano a New York per farlo esibire al Ted Mac Amateur Hour, un talent show senza poltrone girevoli. A scuola si innamora del piano e, siccome di New Orleans, si ispira ai big della città: Professor Longhair, Clarence Frogman Harry, Way Piano Smith e Fats Domino. Fonda il gruppo The Syncopators, con i quali si esibisce nei club della Big Easy. Dopo uno show, Joe Carona, distributore per New Orleans della Ace Records, lo vuole per registrare un singolo ai mitici studio J&M di Cosimo Matassa. Il risultato, questa Cheating Woman del 58, è un grande successo locale. Visto che Vincent Francis Guzzo non era un nome vendibile, il proprietario della Ace Records, Johnny Vincent, decide di fare uscire il disco a nome Frankie Ford, per la crescente passione dei giovani verso le automobili. Il singolo successivo, quello per cui è ricordato, è frutto dei gusti del proprietario della Ace. Way Piano Smith e i suoi Clowns erano andati a Jackson, nel Mississippi, a registrare un disco per la discografica con la quale avevano avuto il loro più grande successo, Rockin' Pneumonia. Incidono 2 brani, ma a Johnny Vincent non piace la voce del cantante del gruppo, Bobby Merchant. Così decide di chiamare Frankie Ford per riregistrare entrambi i brani con la base musicale di Way Piano Smith e i suoi Clowns. Come lato A era stata scelta Roberta, ma a scalare le classifiche la Flip Side, che farà di Frankie un rubacuori adolescenziale. Viste le vendite, firma per la potente Imperial, ma non riuscirà mai a guagliare quel successo. Nel 62 parte militare negli Special Service, cantando per i commilitoni in Corea e Vietnam. Quando torna, nel 64, con l'invasione britannica, nessuno vuole più ascoltare il vecchio rock and roll. Si guadagna da vivere suonando in città più di 200 date all'anno, conquistando sul campo il soprannome di Dinamo di New Orleans. Ogni sera, immancabilmente, canta il suo pezzo forte. She cries, who it, baby, who it, baby, who it. Old man rhythm is in my Please, I don't like begging, but now I'm on bended knee. I got to get to rock and get my hat off the rack. I got to boogie woogie like a knife in the back. So be my guest, you've got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise? Here to stay, 'cause I like it. Woo, I like it. I'm in a stew over what to do, 'cause I like making love to you. Brian Maurice Holden, con soli 7 anni, si trasferisce con la famiglia dalla contea inglese del Middlesex negli States. Prima nel New Jersey, dove il padre trova lavoro in una miniera, poi negli anni 50 a Los Angeles, dove inizia a suonare in piccoli locali e associazioni di reduci di guerra quella nuova musica che chiamano rock and roll. I saw the light, loving you is so alright, 'cause I like it. Woo, I like it. Quando ha 18 anni, segue suo cognato Joe Singer in un viaggio d'affari in Inghilterra. Visto il panorama musicale inglese, è sicuro che lì può diventare una star. Si spaccia per americano e si gioca molto bene le sue carte. Innanzitutto sapeva di prima mano cos'era il rock and roll. Inoltre era cosciente della sua bellezza, un incrocio fra James Dean e Rock Hudson. E dolce per il finale, si era trovato un convincente nome d'arte, Vince Taylor. Il cognome Taylor è un omaggio alla sorella Sheila, innamorata dell'attore Robert Taylor, mentre per il nome Vince ci sono 3 storie diverse. La prima, che sia un omaggio a Jane Vincent. La seconda, che venga dal logo di un pacchetto di sigarette Paul Mall, che recitava Enoch Signo Vinces. L'ultima, forse la più probabile, in onore al personaggio impersonificato da Elvis in Jailhouse Rock, Vince Everett. Inizia a esibirsi al 21 Coffee Bar con la house band locale. Fanno grande impressione. Taylor sopperisce le sue scarse doti canore con un'energia mai vista da quelle parti. Con il nome di Vince Taylor and the Playboys, pubblicano nel novembre del 58 un single con 2 cover, I Like Love un brano scritto da Cowboy Clement per Roy Orbison e soprattutto Right Behind Your Baby, del rocker minore Ray Smith, con uno spettacolare assolo del chitarrista Tony Sheridan. Non ha successo, ma colpisce Jack Good, che l'invita al programma televisivo Oh Boy, nel quale Taylor si presenta completamente vestito di nero, pantaloni e giacca di pelle, camicia con i primi bottoni slacciati e guanti di pelle nera. Un look che negli anni diventerà un classico per i rocker più duri. Il produttore però non rimane colpito dal cantante, ma dal chitarrista, e gli offre di diventare membro della band del programma. Con l'uscita di Sheridan, Taylor riesce a trovare un altro chitarrista, Joe Moretti, uno scozzese con un enorme talento e una straordinaria abilità per creare riff. My darling, my love will be true. Always and forever, I love just you. Nell'aprile del 59 il gruppo registra un secondo single. Il lato A è una scarsa versione di Played in My Love, un pezzo di Johnny Ace, mentre sul lato B c'è un brano scritto da Taylor che menziona due marchi automobilistici americani, Ford e Cadillac. To keep love and to hold, making you happy is my desire. La canzone è censurata proprio perché viola le rigide norme antipubblicità della BBC e così non riceve la diffusione radiofonica che merita. I'll never part from you and your loving way. Nonostante funzioni benino nei jukebox, le vendite sono nulle, così la casa discografica li scarica. Il gruppo si separa, ma Taylor continua a esibirsi al 21 con qualsiasi musicista disposto a suonare con lui. E proprio qui è notato da uno degli uomini della minuscola etichetta belga Palette Records, che aveva a catalogo la prima Elvis in gonnella, Janis Martin. Con la nuova formazione dei Playboys gli fa registrare un single di scarso successo e lo invita a partecipare a un tour di rocker inglesi in Francia. Il 7-8 luglio del 61, vestito completamente di nero e per l'occasione con una catena al collo con un medaglione di Giovanna d'Arco, sciocca Parigi. Segue un tour in tutto il paese, durante il quale viene bandito da alcune città per i disordini che nascono ai suoi concerti. La stampa gli affibbia il nome di Le Diable Noir, facendo di lui una piccola leggenda underground. Il successo gli dà la testa. Il continuo uso di anfetamine mischiate all'alcol lo rende inaffidabile. Così, nel novembre del 62, il gruppo lo manda a quel paese. Con vari cambi di formazione, continua a suonare e registrare dischi di cover di classici del rock and roll. Fa anche da supporto per il concerto parigino di un nuovo e promettente gruppo inglese chiamato The Rolling Stones. Grazie all'intervento della sorella Sheila, si apre la possibilità di un contratto discografico americano. In Seconde Nozze aveva sposato Joe Barbera, proprietario assieme a William Hanna, dei famosi studi di animazione Padri dell'Orso Yogi, i Flintstones e Scooby-Doo. She's gone, gone, gone, gone, my soul. Barbera aveva fondato una nuova etichetta e su pressioni della moglie aveva intenzione di fermare suo fratello. Gli organizza pure un concerto, ma Vince, il 21 maggio del 65, decide di partecipare a un party al Savoy Hotel di Londra, dove è presente l'icona della musica folk americana, Bob Dylan, impegnato in un tour europeo raccontato nel film Don't Look Back. Dopo la festa, il cantautore è stato portato d'urgenza in ospedale per un'intossicazione che dicevano fosse alimentare. Dylan passa una settimana a letto, durante la quale scrive quello che aveva chiamato un lungo pezzo di vomito di 20 pagine, dal quale uscirà il temazzo Like a Rolling Stone. L'intossicazione non era certo stata causata da una maionese mal conservata, ma dall'ingesta di ingenti quantità di LSD assieme a Vince Taylor. Da quel momento le carriere dei due musicisti prenderanno direzioni completamente opposte. Dylan, di lì a poco, registrerà il seminale Highway 61 Revisited, mentre per Vince Taylor sarà l'inizio della fine. A Rocker era piaciuto tanto il viaggio lisergico che aveva speso tutte le 200 sterline in suo possesso per un acquisto massivo di acido. Quattro giorni dopo, al Club delle Locomotive a Parigi, il primo segno di squilibrio mentale dovuto al cocktail alcol, anfetamine e LSD. Invece di cantare, si mette a predicare, affermando di essere il profeta Matteo. Quando la band gli chiede lo stipendio, tira fuori 150 franchi e li brucia, ricordando loro come Gesù avesse cacciato dal tempio chi prestava denaro. Il giorno successivo si presenta al concerto completamente rasato, scusandosi col pubblico per la serata precedente. Sembra rinsavito, ma ormai il coperchio della pentola è andato. Smette di cantare e camminando fra la folla si mette a benedire un pubblico esterrefatto. Si unisce a un gruppo religioso e trascorre il decennio successivo fuori e dentro da ospedali psichiatrici. Viene rispolverato dall'oblio quando David Bowie dichiara di essersi ispirato a lui per il suo personaggio di Ziggy Stardust. Nel 66 se lo incontra al Giaconda Café in Tottenham Court Road. Bowie rimane colpito da quello strambo personaggio quando apre sul marciapiede una cartina del mondo e gli segnala una parte dell'Artico e alcune zone montagnose russe. Territori dove gli alieni avevano le loro basi. In piena epoca punk, sono i Clash a rendergli omaggio con quel brano scritto su un pezzo di carta in un tavolo dello Star Restaurant in Old Compton Street, quando Vince Taylor, dopo aver mangiato con i suoi Playboys l'unico pasto del giorno, inizia a cantare della sua nuova Cadillac nuova di zecca. A brand new Cadillac! Drove up Durante la Skiffle-mania, anche Frederick Albert Heath si getta nella mischia prima con i Bad Teeth and the Vampires, poi Frantic Four e infine con i Five Nothers. Il gruppo fa un'audizione per Carroll Lewis del famoso talent show Lewis Discovers, trasmesso da Radio Luxembourg, l'emittente privata che trasmetteva dal paradiso fiscale del centro Europa, unica forma per i giovani inglesi di eludere il monopolio della monolitica BBC e ascoltare buon rock and roll. I Nothers arrivano terzi e ottengono dei concerti al 21's Coffee Bar e un'apparizione alla BBC per un nuovo programma chiamato Saturday Skiffle Club. Registrano anche una demo dove sull'attuari propongono una versione casalinga del classico di Big Joe Turner, Shake, Rather and Roll, mentre sul lato B c'è una composizione scritta da Heath per la moglie, intitolata Blood Red Beauty. If there's anybody that's feeling bad, who will come along with me and do you feel glad? Just crowd. Wow, just crowd. Quando verso la fine del 58 la tachipirina fa passare la febbre dello schifo, il gruppo si scioglie. If you're not so bad and you're in a state, who will come along with me and do you feel great? Just crowd. Frederick viene notato dal cacciatalenti Don Toy. Riforma un gruppo che dopo vari cambi di denominazione si stabilizza come Freddy Heath and the Nothers e inizia a scrivere canzoni. Uno dei suoi testi, intitolato Please Don't Touch Me, viene venduto ai Buckelors, ma la loro versione fa talmente schifo che si rivela senza tante sorprese un fiasco. Il gruppo è convinto di poter far meglio, anche perché non era certo difficile. Così, il 18 aprile, va negli studi di Abbey Road per registrare il brano. Il single, con questa growl sul retro, esce l'8 maggio e non riceve la giusta attenzione per via dello sciopero della stampa, riuscendo comunque ad arrivare al 20° posto della classifica inglese. Senza nessun tipo di preavviso, il disco, uscito per la sussidiaria della EMI HMV, non porta la firma di Freddy Heath and the Nothers. La discografica, senza consultare la band, cambia loro il nome in quello che li consacrerà come uno dei gruppi inglesi più influenti, Johnny Kidd and the Pirates, che debuttano con l'avveniristica Please Don't Touch Me. Baby, say so much. Well, there ain't no other woman that makes me feel this way. Oh, when she comes up close, well, I just ain't got a word to say. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Don't you touch me, baby, cause I'm shaking so much. Don't you touch me, baby, cause I'm shaking so much. Well, I get so nervous when I see her eyes that shine. She looks right through me and the chills run down my spine. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Well, I don't know why she dug her claws in me. I wanna be a bachelor, fancy free. Running from the preacher boy, what a relief. I'm gonna spend my life shaking like a leaf. Oh, well, remembering the first time a ruby lips brushed my cheek. I opened up my mouth, but the rest of me just wouldn't speak. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake. Don't you touch me, baby, cause I'm shaking so much. Well, come on, baby, don't you touch me now, because I'm shaking so much. Well, come on, baby, don't you touch me, because I'm shaking so much. E per stavolta è tutto, gente. Nel ricordarvi che la vostra felicità è anche la mia, vi do appuntamento al prossimo episodio di Cioccolato Bianco, la storia del rock, quella vera.